Fondi che il laboratorio gioca coi nostri perché. Tra sillabe e dizionari cerca le leggi per imparare. Lui stesso sfoglia quel libro, The Fundamentals of Learning, fra tavole di associazioni e parole da collegare. Ripeti, ripeti, ma non basta mai. Se il cuore non sente, che cosa ci fai? Legge dell'esercizio. Se ti penso mille volte ti ricorderò, ma se non c'è piacere il segno sulla mente svanirà. Lo sai anche tu, effetto halo, un primo battito del cuore. Se parti bene poi il resto verrà. Legge dell'effetto, bonus sopra il malus. Dimmi right e volerò, dimmi wrong e mi fermerò. Nel Trento di Otordi che scrive i fondamenti dell'insegnamento, dimostra che un input nudo non si accende senza un sentimento. Una parola piacevole in testa illumina tutta la lista. Una parola che punge all'inizio fa ombra al resto e lo conquista. Ripeti, ripeti, ma non serve a niente se il gusto non sfiora davvero la mente. Legge dell'esercizio. Se ti penso mille volte ti ricorderò, ma se non c'è piacere il segno sulla mente svanirà. Lo sai anche tu, effetto halo, un primo battito del cuore. Se parti bene poi il resto verrà. Legge dell'effetto, bom sopra il malus. Dimmi right e volerò. Cosa di simile a te, arrivi e trovi già pronto un sentiero per te. Un vecchio schema si stira, si modella su noi, e un nuovo argomento diventa già un po' di noi. Noi. Lo stesso gioco di luci e di voti governa i tribunali e le dipendenze. Un volto ci piace di un solo istante, l'effetto halo colora tutto il resto della gente. Un bonus vale più di mille castighi, la ricerca del piacere trascina i nostri destini. Ripeti, ripeti, ma se giudichi male, anche il migliore si spegne uguale. Legge dell'esercizio, se ti penso mille volte ti ricorderò, ma se non c'è piacere il segno sulla mente svanirà. Lo sai anche tu, effetto halo, il primo battito del cuore. Se parti bene poi il resto verrà. Legge dell'effetto, bonus sopra il malus. Dimmi right e volerò. Dimmi wrong e mi perderò. Dimmi wrong e mi perderò. Ora le reti profonde ci guardano imparare, anche si sfidano a colpi di reward. Biologia e informatica si devono parlare, psicoanalisi e linguaggio si stringono più forte. Piacere come bussola in ogni porta che si apre, intelligenze organiche all'orizzonte lontano portano l'eco di tordiche nella mano di un umano. Ripeti ma dammi un senso, insegnami ma fammi amare, che senza un briciolo di piacere nessuna mente può imparare. Fra neuroni e algoritmi, fra il silenzio e le parole, le leggi dell'apprendimento sono ancora il nostro sole da